Nessuno viaggia, nessuno incontra clienti, i clienti non vogliono incontrare nessuno, gli aeroporti sono vuoti, gli aerei non decollano, ma loro ci sono sempre. Meazza e la Rosciani, che è il virus, mai li incontri sulla sua strada. Avanti ragazzi, avanti così! Il terzo sito dell'INPS, mi tassi 100 euro all'INPS. Ma com'è un'idea, tipo horror però, con gli amici delle password, e già Ma c'è stata la reunion dei Village People? No, no, cara Debora, tutto bene? Stai bene? Abbiamo sì. Qui con Andrea Roccabella abbiamo deciso di movimentare un po' il tutto, perché non stai ascoltando i Village People, bensì bensì Sora Cesira, che ha coniato, e si può trovare in rete, ve lo diciamo, questa divertente parodia, e al posto di YMCA, che era l'originale appunto del testo dei Village People, questo gruppo canta una ballata in discoteca, figurati. Sì. Anzi, in realtà ci scateniamo ancora oggi a risentirla. Esattamente. Anzi, siamo un po' attempati. Ma va bene sì. Anche con INPS, che è il modo all'anglosassone di dire IMSS, perché oggi IMSS avrebbe cominciato a erogare i 600 euro. Sì. Allora, io so da fonte certa, nel senso che ho parlato con una mia amica che ha ricevuto i 600 euro, ha avuto effettivamente un crollo della sua attività, che si occupa appunto di realizzazione di eventi e di spettacoli, in questo momento, come potete immaginare, non ha di fatto lavoro, e quindi ha presentato la domanda perché tutto si è bloccato per tutto il mese di marzo. Ha ricevuto effettivamente questo aiuto. Non so se i nostri ascoltatori possono confermarci, si parla di erogazione per 1,5 milioni di persone, se ricordo bene la cifra. È così, Deborah? Tu che hai avuto tempo di verificare addirittura forse con Tridico medesimo, forse? No, diciamo che non l'ho chiamato direttamente, in realtà questa mattina ho chiesto conferme per un'altra operazione della quale adesso vi daremo conto, ma insomma pare che circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda stanno ricevendo l'indennizzo sul proprio conto corrente. Proprio oggi, entro la fine della settimana, si chiuderanno tutte le pratiche restanti e quindi saranno in pagamento indennità per oltre 1.800.000 lavoratori, l'11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% di lavoratori autonomi e il 22% di lavoratori agricoli. E questa è una tranche in sostanza appunto che viene erogata in tempi abbastanza rapidi, nonostante le problematiche registrate dall'INPS la scorsa settimana, quando è partita tutta la possibilità appunto di inoltrare la domanda all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, temendo che fosse, lo ricorderete, un click day. In molti si sono affrettati a fare la domanda mandando in tilt tutto il sistema, ma dall'INPS passano tante indennità, ammortizzatori sociali, bonus, voucher, Mauro, per cui è anche abbastanza ragionevole aspettarsi che un momento di intoppo ci sia, nonostante in molti abbiano gridato all'inefficienza di queste giornate dell'Istituto di Previdenza Sociale. Noi siamo un po' più per quelli, siamo un po' più per la comprensione, diciamo, per la fase abbastanza problematica che stanno vivendo persino le banche in questo momento, nonostante le abbiamo abbastanza attaccate, ma è chiaro che le domande che arrivano di ogni ordine e grado in questa fase sono moltissime, a accontentare tutti in tempi ultra rapidi è complicato. Beh, che cosa diciamo, sta arrivando peraltro anche in questi giorni? Sì, sì, ma guarda, non è che noi abbiamo attaccato le banche, abbiamo sollecitato, perché sì, qualche volta pochino, abbiamo, sì, ci sono state pochino, segnalate sì. delle inerzie che non comprendevamo. Ti posso dire che su WhatsApp gli ascoltatori stanno così dando vita a una sorta di sondaggio al 349-238-6666, è l'abituale numero per i vostri SMS WhatsApp. Per adesso diciamo che prevalgono nei messaggi che stanno arrivando via WhatsApp coloro che ci dicono sì, ho ricevuto i 600 euro, bene, li ho trovati sul conto, li ho ricevuti qui un agente di commercio, un altro che dice sì, mia figlia si occupa pure lei di eventi, li ha ricevuti, agenti di commercio li ho ricevuti, insomma confermo. Qualcuno invece, ma per adesso una minoranza, dice no, non ho visto ancora nulla, speriamo bene nei prossimi giorni, in settimana appunto, come ha spiegato Deborah, in settimana dovrebbero essere erogati tutti per tutti i richiedenti questi 600 euro. E questo è il motivo per cui abbiamo cominciato con questi finti Village People che cantano INPS, cioè INPS, ma invece oggi è mercoledì e dobbiamo parlare di lavoro, giusto Deborah? Esatto, parliamo di lavoro, non ci discostiamo molto da tutto il preambolo che abbiamo appena fatto, perché affronteremo un po' le situazioni, se vogliamo, più complesse, più problematiche, le abbiamo chiamate le situazioni ibride, e quindi ci sono molti lavoratori che stanno aspettando appunto l'indennità di competenza, vuoi che sia un ammortizzatore sociale, vuoi che sia un bonus, vuoi che sia un voucher, ma se tu hai una condizione professionale complessa, magari non sai qual è l'interlocutore al quale rivolgerti, non sai qual è l'indennità che ti spetta, non sai qual è il tipo di lavoro al contratto di lavoro che prevale, per cui se chiedere a un sostituto d'imposta rispetto ad un altro, per cui questa mattina abbiamo fatto preparare su tutta una serie di casi che ci sono arrivati qui a Radio 24, un consulente del lavoro sarà con noi Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro, a cui abbiamo sottoposto una casistica molto articolata e quindi gli abbiamo chiesto appunto di dare delle risposte dirette agli ascoltatori che ci hanno scritto. Naturalmente voi potete continuare a farlo all'800 24 00 24, potete continuare anche a scriverci al 349-238-6666. Mauro ha il piacere di leggere tutto il mondo WhatsApp, che è sempre molto, molto intenso, molto in fermento, per cui mandateci anche dei messaggi vocali e li inoltreremo appunto al nostro esperto di questa mattina per capire se possiamo darvi una risposta veloce, breve e soprattutto concreta. Allora, avendo scomodato appunto, come sempre del resto facciamo qui a Due di Denari, un esperto di valore mondiale, però Deborah stessa, lo so che l'hai fatto, ha scomodato altri esperti di riferimento e tra poco, quando apriremo il giornale radio del risparmio, ci parlerà di questi Covid bond o Covid BTP, non so bene come li dobbiamo chiamare, però ce lo spiegherà naturalmente nei dettagli Deborah, perché so che ha parlato con persone molto in alto, giusto Deborah? Molto in alto, ma non si possono rivelare le fonti, ma non mettermi in imbarazzo. No, però so che ti sei aggiornata. Tra l'altro oggi parliamo di lavoro, domani è giovedì e parleremo di risparmi, investimenti o liquidità, insomma tutto quello che ci interessa di più in questo momento per quanto riguarda la gestione dei nostri soldi, e allora anche questo sarà sicuramente uno dei temi che affronteremo nella puntata di domani nell'abituale Investire Informati. Allora, per adesso mi pare che già con la soppressione della sigla abbiamo fatto fin troppe novità, manteniamo un pochino di tradizione Deborah, se sei d'accordo. Andiamo chiediamo ad Andrea Roccabella, che mi fissa con i suoi occhiali e la sua mascherina d'ordinanza color verde al di là del vetro, dietro di lui scorgo anche la fisionomia cara di Luca Cremonese, che è il badante di riferimento, il badante del territorio, è praticamente il braccio operativo di Marco Lombardo, che sempre tutto sorveglia dall'alto. Allora, a tutti questi signori io chiedo per cortesia, possiamo avere una sigla del giornale radio del risparmio a ciò che Deborah possa raccontarci quello che ha scoperto sui Covid bond? Vi ringrazio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Non ho fatto una grandissima scoperta, nel senso che la notizia circolava già da ieri, ma questa mattina ne abbiamo i dettagli. Allora, era previsto, ieri anche la nostra agenzia di stampa Radio Cor del Sole 24 Ore aveva anticipato che la Cassa Depositi e Prestiti fosse pronta oggi ad emettere i Covid bond, per l'appunto, e quindi un'emissione straordinaria finalizzata a sostenere i costi dell'emergenza legata all'epidemia. Una emissione che è composta, perché poi l'operazione è partita questa mattina, il collocamento è partito questa mattina, un'operazione composta da due tranche di BTP, un titolo a 3 anni, un titolo a 7 anni, e abbiamo appunto, come vi dicevo, già le prime indicazioni sul risultato di questa operazione, che però va precisato è destinata esclusivamente al pubblico istituzionale, al pubblico di investitori istituzionali, quindi non ai piccoli risparmiatori come noi. Sappiamo già che per la tranche a 3 anni il tasso richiesto dovrebbe essere superiore di circa 45 punti base rispetto al tasso delle BTP di pari scadenza circolante. Per il titolo a 7 anni invece il prezzo dovrebbe attestarsi ad un aumento, il rendimento dovrebbe essere superiore di circa 50 punti rispetto alle BTP di riferimento. Questo al momento è quello che sappiamo, non abbiamo ulteriori dettagli, ma non appena ne avremo appunto qualcosa di più preciso ve lo faremo sapere sicuramente. Ma la cosa importante, lo diceva Mauro poco fa, è che è in programma e dovrebbe uscire proprio a pochissimi giorni l'emissione di un nuovo, lo metto tra virgolette, BTP Italia, perché questa nuova emissione non è simile a quella che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati, in questo titolo appunto per il pubblico retail, che è stato emesso soprattutto nelle fasi di particolare difficoltà di raccolta del tesoro italiano. Sappiamo che il primo BTP Italia è stato emesso poco dopo la crisi dello spread del 2012 e quindi lo ricordiamo associato a momenti abbastanza particolari appunto delle finanze italiane. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ieri ha aggiornato le linee guida sulla gestione del debito pubblico, anticipando proprio la necessità di lanciare sul mercato prodotti retail, perché sappiamo che le famiglie italiane detengono circa il 3% del debito pubblico italiano e quindi vorrebbero in qualche maniera anche fronteggiare questa crisi economica chiedendo questo tipo di contributo alle famiglie, cioè la sottoscrizione di un certo titolo che avrà determinate caratteristiche e che ovviamente tenderà a proteggere molto l'investimento degli italiani. L'unica caratteristica differente rispetto al passato, secondo quanto abbiamo potuto apporare, è che non dovrebbe essere un titolo, Mauro, indicizzato, esatto, all'inflazione come i precedenti. Sarebbe stata la prima domanda che ti avrei fatto, Deborah. Siccome il BTP Italia sappiamo che è famoso, per dir così, tutte le sue emissioni sono famose per il fatto di essere correlate all'andamento dell'inflazione, ma in questo caso noi temiamo purtroppo una deflazione, se non addirittura una recessione. Allora mi stavo chiedendo, ma come faranno con questa caratteristica particolare del BTP Italia? Come faranno? Quindi non la faranno. Non lo faranno, esatto. E così elimineremo questo problema. Sai però altro? Hai presto... scoperto altro? Sì. No, ce lo verranno a dire tra qualche giorno direttamente dal Ministero dell'Economia, quindi tenetevi pronti che non appena il lancio sarà predisposto noi naturalmente lo condivideremo subito con i nostri ascoltatori. E allora abbiamo dato un bel po' di più di quanto potete trovare oggi sui giornali, anche sul Sole 24 Ore naturalmente, con queste caratteristiche di queste emissioni non previste che servono naturalmente a finanziare tutte queste provvidenze che abbiamo messo in corso di opera, tra cui 600 euro su cui ci continuate a scrivere, anche dei Cococò ci scrivono, i collaboratori coordinati continuativi, dicendoci che hanno ricevuto, altri dicono che invece no, ancora non l'hanno ricevuto, però devo ammettere che sono molti di più i messaggi WhatsApp e anche SMS che dicono di avere ricevuto sul conto i 600 euro, quindi un'operazione che, a differenza di quanto un po' era successo il primo aprile e avevamo avuto modo di criticare anche il portale dell'INPS, ecco invece questa volta l'operazione sembra funzionare correttamente, speriamo che così prosegua. Io voglio dire una cosa, però devo fare non una ma due premesse, è una ipotesi. Prima premessa. Seconda premessa, è una ipotesi. Non è ancora vero niente, se ne sta soltanto parlando. Non so se sono stato chiaro, Deborah, tu cosa dici? Perché... Non so se tu hai mai visto il film Fight Club con Brad Pitt. No. Prima regola del Fight Club, non parlare mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non parlare mai dell'esistenza del Fight Club. Quindi abbiamo capito il tuo messaggio. Okay. Ecco, non so se il parallelo era calzante, ma mi piaceva farlo. No, perché è un tema, guarda, ci tengo ad essere così pedante, perché è un tema su cui abbiamo avuto tante richieste di chiarimenti. Ci sarà qualche cosa per le golf? Allora, pare di sì, forse ci sarà. Dove metteranno questo possibile aiuto? Oggi Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore, pagina 8, spiega alcune delle caratteristiche che sono allo studio del Ministero. Si pensa di erogare un importo tra 400 e 600 euro con una speciale cassa integrazione, qualcosa che somiglia un po' a una cassa integrazione. Come verrebbe regolato l'importo? Secondo la quantità di ore che la Colf fa, o aggiungo malignamente la quantità di ore che abbiamo dichiarato che la Colf fa, che abbiamo dichiarato all'INPS che la Colf fa, perché qualcuno, diciamo così, a volte si scorda, sai, amnesie sono possibili anche in questo campo, non solo nella dichiarazione dei redditi. Però questo sarebbe un sostegno che poi dovrebbe andare a cogliere, però, per cercare di non lasciare davvero indietro nessuno, anche quelli che sono non esattamente in regola, colf e badanti che non sono esattamente in regola. Come tutto questo funzionerà e da quando non lo sappiamo ancora, se ne parla nel decreto aprile cosiddetto, un decreto di cui state leggendo, state ascoltando anche le varie misure allo studio. Se tutto va bene lo vedremo, diciamo, intorno alla fine della prossima settimana, così all'ingrosso. Per adesso la prospettiva è questa, quindi forse ci sarà un sostegno economico anche per colf e badanti. Deborah. Tutte le categorie professionali chiedono adeguata attenzione. Oggi circola un nuovo imponente richiamo da parte del mondo dell'intermediazione immobiliare. La consulta interassociativa nazionale dell'intermediazione immobiliare, e cioè tutte le organizzazioni di categoria ANAMA, FIMA e FIAIP, hanno preso carta e penne e tutte insieme hanno lanciato questa proposta al governo di collaborare fattivamente, vi leggo testualmente la nota stampa, per la definizione di un protocollo di misure precauzionali e di sicurezza nello svolgimento dell'attività di agenzia immobiliare, affinché anche questa categoria possa rientrare il più rapidamente possibile fra quelle consentite, appunto, visto che si sta progressivamente portando avanti questo tentativo di fase 2. Anche il settore chiede di ripartire, perché, come sapete, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane con il mondo dei notai in particolare, sono completamente bloccati tutti gli atti di trasferimento immobiliare, tutti gli atti di compravendita, evidentemente sono sospese le visite nelle abitazioni nel caso ci fosse un acquirente che vuole comprare una casa nuova, e quindi nelle prime tre settimane di lockdown, lamentano appunto gli agenti immobiliari, sono stati sospesi e in parte annullati oltre 20.000 atti, ed è un dato spaventoso che si somma alla possibile chiusura del 30% circa delle agenzie immobiliari operanti in Italia. Se pensate a quanto fosse intenso il mercato immobiliare, attivo il mercato immobiliare in fermento, soprattutto in Lombardia, che era la regione che ha trainato questo settore in forte crisi negli ultimi anni, questo potete capire appunto quanto sia un tema di rilievo che appunto è stato sottoposto, come dicevamo, al governo, per cui vedremo appunto se ci sarà in qualche maniera anche una ripartenza graduale in questo comparto, come chiedono gli addetti ai lavori. Mauro? Allora, io voglio segnalare a tutti gli ascoltatori che domani con il Sole 24 Ore ci sarà un supplemento dedicato al decreto cosiddetto liquidità, quindi le varie erogazioni. Oggi abbiamo appunto indicato, lo avete ascoltato anche in altre trasmissioni precedenti, dell'attivazione dell'erogazione del prestito fino a 25.000 euro per quanto riguarda le imprese. Quindi domani questo decreto viene analizzato in un allegato al Sole 24 Ore che troverete in edicola, e naturalmente sarà anche disponibile per il nostro formato digitale per gli abbonati nel nostro sito www.sole24ore.com. Io a questo punto, Deborah, ti proporrei, ascoltiamo l'odierna pillola che ci hanno consegnato i nostri amici esperti di risparmi e di investimenti come consigli. Stiamo mandando in onda, come sapete, uno o più di uno ogni giorno. Sono inviti naturalmente a considerare bene il proprio portafoglio e a cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare in questa fase. E poi andiamo subito alla nostra rubrica del mercoledì, perché vedo che già il nostro ospite è in attesa e quindi gli chiedo ancora un momento di pazienza. Certo. Andrea. Sì, presento semplicemente il consulente finanziario che ci offre la sua pillola del giorno. Vi presentiamo Andrea Maurelli, consigliere finanziario di Euclidea Sim, che ci ha mandato il suo messaggio dalla bella Pavia. Investire informati. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, buongiorno radioascoltatori. Grazie per questa opportunità. Un mio pensiero va a chi sta lavorando nell'emergenza, in condizioni di emergenza, affinché tutto possa andare per il meglio. Grazie al personale medico, sanitario e alle forze dell'ordine. Anch'io, come tutti voi, in casa con la mia famiglia. Noi consulenti possiamo aiutarti, caro investitore. In questo momento possiamo aiutarvi tutti, anche uno ad uno, ad investire in serenità. Ciò è possibile. È semplice, ma non è facile. Le risorse finanziarie saranno importanti per ripartire alla fine del lockdown. Si tratta di applicare delle regole di buon senso. Investire è un processo, gli storni sono eventi del processo, non investire non è un'opzione. Semplicità, diversificazione, tempo, costi bassi. Applicare un vero e proprio protocollo di investimento. Se non sei contento della tua pianificazione, rivolgiti ad un consulente, scegline uno. Non fare scelte avventate in questo periodo, preso dall'emotività e dalla paura. Vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti. Anche questa volta ce la faremo. Dov'è il nuovo lavoro? Ciao ragazzi, con la vostra autorevole leggerezza ci tenete compagnia. Volevo chiederti se avevate notizie invece per quanto riguarda i pagamenti della cassa integrazione, perché io come datore di lavoro ho ricevuto istruzioni da chi ci tiene le paghe che dovremmo ricevere una mail sulla nostra PEC per poter autorizzare appunto questi pagamenti delle casse integrazioni. Ad oggi io non ho ricevuto nessun avviso sulla mia PEC proveniente dall'INPS per pagare queste casse integrazioni ai miei dipendenti, e francamente sono decisamente preoccupato. Ciao, a presto. Deborah, devo dire che questo ascoltatore, che ringraziamo, è anche molto gentile nei nostri confronti, questo ascoltatore è forse uno dei primi quesiti che possiamo sottoporre al nostro ospite di questa mattina. Già lo avevi anticipato, è Pasquale Staropoli, è il responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro. E allora innanzitutto benvenuto a Due di Denari, dottor Staropoli. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno agli ascoltatori, grazie. Allora, per quanto riguarda la cassa integrazione, risulta, questo le dico proprio le notizie di cronaca da giornalista, che quasi la metà degli importi richiesti, sono 4 milioni e mezzo di lavoratori che sono interessati da questa cosa, 300.000 imprese circa, quasi la metà degli importi è stata già anticipata dai datori, la parte restante risulta che dovrebbe essere pagata entro 30 giorni. Possiamo dire qualcosa di più, dottor Staropoli? Questo conferma quella che era stata la posizione sin dall'inizio dei consulenti del lavoro, del Consiglio nazionale di Fondazione Studi, che avevamo evidenziato come fosse ottimistica la rassicurazione che entro il 15 aprile, considerati in tempi tecnici, entro il 15 aprile potevano essere materialmente corrisposte le indennità di cassa integrazione. Per un motivo molto semplice che abbiamo ripetuto più volte: in una situazione emergenziale e di urgenza, purtroppo al di là di alcuni dettagli di semplificazione, gli strumenti a disposizione delle aziende, dei consulenti del lavoro sono rimasti gli stessi, quindi con tempi tecnici appunto che impediscono e hanno impedito di fatto garantire questa scadenza del 15 aprile. Per le indennità, quelle di 600 euro, è chiaramente più semplice perché è un'indennità forfettaria non legata a parametri connessi alla retribuzione, all'inquadramento dei lavoratori, quindi probabilmente è più semplice ed è per questo che si registrano delle concessioni già da oggi. E poi naturalmente ci sarebbe il discorso della cassa integrazione cosiddetta in deroga, dove lì bisogna che si attivino le regioni, non tutte risultavano essere ancora attivate, mi pare, Staropoli. Sì, c'è stato, sicuramente ci sono modi diversi di affrontare la questione, procedimenti diversi e ci sono stati tempi diversi nella attuazione delle misure. Questo purtroppo è un sistema a macchia di leopardo che ci trasciniamo dalla riforma dell'articolo 117 della Costituzione. Sono attribuzioni che le regioni hanno e che esercitano in autonomia, e in autonomia purtroppo vuol dire anche senza il coordinamento che sarebbe invece necessario in situazioni come queste. Qual è l'eccezionalità? Cioè tutta l'Italia si è ritrovata a ricorrere a strumenti di ammortizzatori sociali. Certo. Cosa che è una novità assoluta. Il famoso crash, crash del primo aprile per il sito IMSS, quando c'era stata la richiesta di massa, lo testimonia. Insomma, quello è stato un po' forse quasi l'esempio lampante di quanto è difficile, quanto è straordinaria questa situazione, straordinaria in senso peggiorativo, non naturalmente straordinaria, nel senso che la vogliamo vivere più volte. Allora, è il trentesimo e noi a questo punto della trasmissione, dottor Staropoli, abbiamo sempre l'aggiornamento dei mercati finanziari che Deborah sorveglia con occhio attento. Tra l'altro oggi mi pare, Deborah, che facciano pure i capricci, o non lo so, mi spiegherai se invece qualcuno sta realizzando perché erano andati bene nelle giornate precedenti. No. Va bene. Diciamo che ieri il Fondo Monetario Internazionale ha messo un po' un carico di briscola, come si direbbe in questi casi, su una situazione già un po' precaria. Ecco, avendo dipinto l'entità della recessione che ci sta arrivando addosso, i mercati fanno i conti, fanno due conti oggi. E si riposizionano, come dicono quelli bravi. Va bene, ma allora ascoltiamo in dettaglio, per favore, Deborah, le borse. Meazza, ma quante ne sai? Due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno, mi sembra strano che il governo mette in atto le casse in deroga per i contratti stipulati fino al 23 febbraio, in quanto l'Italia era in normalità anche e fino il 15 marzo. Tutti quelli che hanno stipulato un contratto dal 25 all'8 o al 15 di marzo si trovano tutti, ahimè, fuori. Purtroppo questa è una bella fetta e bisogna prenderne atto, bisogna discuterla. Eh sì, il tema della rosa delle esclusioni a vario livello, Mauro, emerge frequentemente a seconda dell'argomento che trattiamo. Basti ricordare ieri quello che abbiamo fatto con i mutui. Naturalmente si è tentato di fare un correttivo, no, rispetto alle categorie escluse dalla moratoria. Per quello che riguarda il mondo del lavoro e gli ammortizzatori sociali, credo che abbiamo appunto le stesse problematiche. Non so se vuoi discuterne con il nostro ospite di stamattina. No, dobbiamo solo aspettare, diciamo così, la conversione in legge dei vari provvedimenti varati, il 18, il cosiddetto Cura Italia, il 23, insomma, vedere un pochino che cosa si potrà fare in sede parlamentare per estendere qualcosa. So che la Fondazione Staropoli comunque si sta spendendo parecchio anche presso le istituzioni per segnalare le varie situazioni, è così, Staropoli? Sì, questa questione del 23 febbraio è stata una delle prime che abbiamo sollevato immediatamente, perché non aveva oggettivamente nessuna logica, se non quella, mi assumo la responsabilità di questa riflessione, che il decreto era frutto sostanzialmente di un copia e incolla di quello già previsto, numero 9, per le zone rosse, che vincolava il 23 febbraio, ma lì aveva un senso perché determinava l'entrata in vigore di quella norma. E quindi ci siamo trascinati questo 23 febbraio. In realtà la signora che sentivo prima ha assolutamente ragione, però almeno questo gap è stato recuperato dal Cura Italia, perché adesso sono inclusi nelle misure di ammortizzatori sociali, quindi di cassa integrazione, tutti i lavoratori anche assunti dal 24 febbraio al 17 marzo, data di entrata in vigore del Cura Italia, che è una scelta razionale, tardiva ma razionale. Allora, noi abbiamo raccolto un po' di casi per lei, dottor Staropoli. Sì. Non so se vado così, pesco fior da fiore davvero, nel senso che sono tutte questioni sospese e, come annunciavamo all'inizio di trasmissione, situazioni spesso ibride, perché il lavoro non sempre, anzi ormai sempre meno, è una cosa molto lineare, per cui uno svolge un'attività per cui si presenta al mattino, esce la sera e tutto finisce lì. Ci sono tante altre forme, insomma, di lavoro. Ad esempio, dice, scrive un ascoltatore: sono un dipendente, contratto a tempo indeterminato, sono però in malattia da 10 giorni, nel frattempo l'azienda ha ottenuto la CIG. Lo studio dove si appoggia l'azienda ha accennato la possibilità che la cassa sostituisca la malattia. Ma questo è possibile, questo contrasto tra le due norme? Cica. Sì, è vero, se la misura di cassa integrazione comporterà una sospensione totale dell'attività, o per esempio una sospensione totale, che so, del reparto, dell'ufficio, dove ha detto l'ascoltatore che scrive e che è in malattia, sì, si ha la conversione dell'indennità di malattia in indennità di cassa. Non così se invece al posto di una sospensione c'è una riduzione, quindi un ricorso parziale alla cassa integrazione. Sì. Però è possibile, è corretto, quello che gli hanno detto è corretto. Perché infatti la cassa, spendo una parola su questo, sì, magari viene richiesta, che so, per il 30-50%. 100% dell'orario di lavoro, non so, per due giorni, per esempio, o tre giorni, infatti, su cinque la settimana. O per un reparto e il lavoratore in malattia è destinato a un altro reparto, quindi continua ad essere nel regime di malattia. Al contrario, appunto, se la cassa è per tutta l'azienda o per tutto il reparto dove è assunto e inquadrato il signore che ci scrive, sì, diventa trattato in cassa integrazione come i colleghi. Deborah, hai tu qualche domanda dalla raccolta degli ascoltatori? Sì, sì. Prego. Ce n'è una interessante, perché in realtà può sembrare paradossale, ma a qualcuno è anche successo che a marzo abbia continuato a lavorare, abbia lavorato molto e quindi non abbia registrato, nonostante fosse una partita IVA, una drastica riduzione dell'attività di business, e quindi si chiedono delle persone, nel caso specifico lo fa Elisa, se abbiano comunque diritto al bonus da 600 euro. Lei ci racconta che ha aperto questa sua partita IVA nel marzo dell'anno scorso. Nel primo trimestre del 2020 ha avuto un fatturato più alto rispetto al pari periodo di un anno fa, nonostante non abbia lavorato per tutto il mese di marzo, appunto causa Covid 2019. Ha comunque diritto al bonus di 600 euro e peraltro questo mi dà l'occasione, Staropoli, anche per chiederle effettivamente fino a quando possiamo farne richiesta. Abbiamo già detto che non c'era il famoso click day, in molti hanno già fatto appunto la richiesta del bonus, quindi per chi volesse chiederlo per il mese di aprile, fino a quando ha tempo di farlo? Allora, partiamo dalla domanda che fa l'ascoltatrice Elisa. Sì, Elisa. Lei dice: ho una partita IVA, però non ho, sostanzialmente dice, non ho un calo, non ho un calo di affari, un calo di redditi. Tenendo per buoni i dati che ci dà, e quindi partita IVA, e devo presumere non iscritta a un ordine professionale, quindi con un trattamento previdenziale non di una cassa privata, sostanzialmente non c'è un riguardo, cioè tra i requisiti non c'è il calo del reddito, ma solo che che sia in forma esclusiva iscritta alla gestione separata e che non abbia altre forme previdenziali obbligatorie e che non sia in pensione. Quindi la risposta abbiamo già è, fatto la puntata con il presidente di ADEP, Oliviti, che ci ha spiegato infatti tutti i dettagli. Quindi può essergli riconosciuto il bonus di 600 euro, che però è ancora possibile richiedere per marzo. Tutti ci hanno detto che sarà prolungato anche ad aprile, per il mese di aprile, però qui dobbiamo davvero, mentre prima quando si parlava della estensione dei lavoratori che possono essere interessati alla cassa integrazione, abbiamo già il decreto Cura Italia, per aprile effettivamente dobbiamo aspettare la conversione, dobbiamo aspettare le prossime norme, anche se unanimemente dal governo ci è stato detto che questa non è una misura una tantum, ma che si ripeterà nei mesi. Pare addirittura che dovrebbe anche aumentare questa indennità, però su questo non abbiamo al momento dati 800 certi. Euro, esatto. Infatti, questi sono i numeri che girano. Ecco, però scusa Deborah, tu sai che io sono una persona pedante. Tutto questo è una proposta, e ancora a livello di proposta. Sì, non ci sono norme, questo l'abbiamo letto sui giornali. No, ma non volevo correggere la Staropoli, perché infatti, condivido, perché poi sì. Si creano giustamente anche delle aspettative per dire, ma come è stato scritto, è stato detto che sarebbero arrivati addirittura non più 600 ma 800 euro anche il mese prossimo, perché vediamo? Infatti, non è ancora stato stabilito nulla, quindi per adesso abbiamo solo i 600 euro che abbiamo potuto richiedere dal 1 aprile in poi. Sì. Deborah, hai altri casi per Staropoli? Allora, proviamo ad accontentare il signor Loris dalla provincia di Treviso, che ci racconta del caso nel quale si trova sua figlia titolare di partita IVA, non iscritta ad alcun ordine, tuttavia riceve un compenso perché assegnista di ricerca presso l'università italiana. Ha comunque diritto al bonus 600 euro? Staropoli? Direi di sì, perché allora non abbiamo indicazioni chiarissime sulla norma, però ancora una volta, nei limiti delle informazioni che ci danno gli ascoltatori, titolare di partita IVA e dichiara di non essere iscritta ad alcun ordine, quindi situazione applicativa come quella che abbiamo appena visto, senza particolari riferimenti al reddito, e l'INPS nella circolare con la quale ha provato a dare chiarimenti su queste norme, ha ritenuto la compatibilità, tra le altre cose, con i sussidi per fini di studio, eccetera. Quindi riterrei che l'assegno di ricerca possa essere considerato compatibile e quindi può richiedere il bonus di 600 euro, considerando però che la legge richiede che la partita IVA sia attiva, cioè che in realtà non sia che effettivamente svolga un'attività, abbia fatturato sostanzialmente, a prescindere dall'assegno. La partita IVA deve essere attiva. Cioè deve avere anche... Attiva il 23 febbraio. Ok, ma nel senso che deve avere prodotto delle fatture, insomma, in qualche modo? Deve... Non ci sono limiti di reddito, quindi non con particolare puntualità rispetto a questo aspetto, però è chiaro che deve essere attiva. Sì, non deve essere una partita IVA dimenticata, magari quelle che sono state aperte e poi lasciate lì. Ci sono, sappiamo, anche diverse migliaia di partite IVA in queste condizioni. Ogni tanto si fanno pure delle operazioni di decadenza gestite, appunto. Sì, ogni tanto vuol dire ogni diversi anni. La norma è chiara, deve essere attiva la data del 23 febbraio, una delle poche condizioni che per questa fattispecie la norma richiede. Allora, tra un minuto ci dobbiamo fermare per le informazioni sul traffico. Le domande sono ancora molte, altre ce ne state inviando, altri si stanno prenotando all'800240024. Rispondo io a una domanda che è arrivata, dice: ma dovrò rifare la domanda per prendere il bonus anche ad aprile? Ah. Ecco, appunto, non lo sappiamo ancora, perché il bonus non c'è. Vorrei essere molto chiaro su questo per non, ripeto, ingenerare delle aspettative su cose che ancora non sono disponibili. Invece all'amico che ci dice che siamo faziosi e schierati a favore del governo, vorrei segnalare che noi in questo momento stiamo cercando di dare delle informazioni di servizio. Poi, no, se non questo... è vero, Mauro, dillo che sei schierato a favore dell'INPS e soprattutto di Amazon. Così, io sono schierato a favore di INPS. Adesso non so se Andrea Roccabella riesce a rimettermi subito questo conio della Sora Cesira che mi diverte molto, ma nel frattempo, signore, ascoltiamo le informazioni sul traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie e traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Due di denari. Ma non può essere un evento il fatto che l'INPS dia 600 euro a attività che hanno perso migliaia e migliaia e migliaia di euro. Non può essere un evento. Chiedo scusa, ma visto che si parla di INPS, i congedi parentali straordinari Covid-19 sono stati prorogati anche quelli fino alla data del 3 maggio? Perché finora l'INPS non si è pronunciata. Grazie. Luigi da Tarvisio, un artigiano. Scusate, ma è vero che il bonus di 600 euro verrà addebitato sul mio conto e la stessa banca dovrebbe comunicare con un'email il dovuto importo all'interessato? Grazie. Deborah, l'abbiamo ripescato a INPS perché stava troppo bene. Ci stava troppo bene. Andrea Roccabella magicamente se l'è ripescato al volo. Allora, credito, ma mi risulta che la credito sia addirittura segnalato con un messaggio dalla parte dell'INPS. Esattamente, della banca. Quello che stavo dicendo io. No, guarda, devo dire che anche se pure questa trovo che sia una pratica discutibile di tutte molte persone che conoscono che stanno mettendo in bella vista il fatto di aver ricevuto i 600 euro dall'INPS, ma questa è una mia considerazione personale e magari la farò con i diretti interessati, perché io non credo neanche che ci sia bisogno di sbandierare a tutti che si sono ricevuti questi soldi. Ognuno di noi ha le sue necessità e le può comunicare magari ai familiari, però vabbè, questo è un altro punto. Detto questo, fanno proprio vedere la comunicazione dell'INPS dell'avvenuto a credito sul proprio conto corrente, appunto, di questa cifra. Però è una comunicazione dell'INPS, non è una fotografia dell'estratto conto bancario, ecco quello che viene mostrato. Punto. Allora, torno. Editoriale fatto anche per oggi. Torno invece da Staropoli. Questa che le sottopongo è una domanda che abbiamo avuto tantissimo anche sul nostro forum internet, quello dell'esperto risponde del Sole 24 Ore. Tra l'altro è ancora aperto, potete ancora presentare domande, è gratis, dovete digitare www.ilsole24.com/forum coronavirus. Potete consultare le risposte, eccetera. La domanda è ricorrente. Il signore che ci scrive è un dipendente del commercio, negozio di ottica, chiuso causa Covid. La cassa integrazione, ci chiedono, va considerata solo quando le ferie sono finite oppure è corretto essere messi a prescindere dalle ferie in cassa integrazione? Ripeto, è stata una FAQ proprio questa, una domanda ricorrente. Staropoli. Sì, domanda ricorrente anche per noi, perché c'è stata anni fa una cassa in deroga, c'è stato un decreto che aveva previsto questo obbligo di fruizione delle ferie. No, non è necessario finire le ferie e si può avere accesso alla cassa integrazione a prescindere dal monte ferie. Pronto? Sì, sono qui. Scusate, pensavo di aver perso io il collegamento, no. Sapendo. No, no, ti sentiamo forte remoto. E chiaro, Deborah, perché cosa volevi chiederci? No, chiedevo appunto se fosse esaurita la risposta. No, stavo guardando un altro caso, Mauro, che a te farà impazzire, perché l'ascoltatore lo racconta con candore, ma noi rimaniamo sempre un pochino perplessi rispetto anche alla... così capacità di condivisione che hanno i nostri ascoltatori anche delle questioni un pochino più tra virgolette problematiche, perché ci scrive Alberto, chef per catering della provincia di Lecco. Il suo settore fermo, ci racconta, ma l'azienda, siccome non è in regola con il fisco, non può richiedere la disoccupazione, chiaramente ecco. Lui si trova anche nei problemi per cercare di capire che tipo di sostegno economico può avere per fronteggiare i prossimi mesi, visto che questa è un'attività che tipicamente sarà tra le ultime presumibilmente a riprendere. Noi speriamo di no, ma non vediamo proprio una visibilità sulla fase 2 del settore ricettivo, turistico, ristorazione, alberghiero, appunto una fase 2 a breve. Questo ascoltatore ci racconta di essere assunto a tempo indeterminato con un livello 4, ci racconta anche qual è il suo mensile, più premi, a quanto arriva, ma il datore di lavoro gli propone, siccome siamo senza lavoro, ti dimezzo lo stipendio fino a quando si ricomincia, perché proprio per questo suo rapporto strano con il fisco del datore di lavoro forse non può accedere all'ammortizzatore sociale. Staropoli. Sì, ha detto bene, rapporto strano, qua non si capisce qual è la stranezza, perché in realtà per esempio anche un inadempimento contributivo del datore di lavoro non impedisce il ricorso, quindi non impedisce la tutela alla fine per i lavoratori, quindi qua per la verità i dettagli, cioè avremmo bisogno di maggiori dettagli per capire perché non può, non vuole ricorrere alla cassa integrazione, questo non si comprende. Sulla proposta di riduzione, è una proposta, può essere accettata, ma chiaramente su base volontaria, non c'è nessun obbligo da parte del lavoratore di ridursi lo stipendio perché c'è questo calo di attività. È il datore di lavoro che dovrebbe correttamente attuare invece tutti gli strumenti di ammortizzatori possibili, certo. Che ripeto, sono indifferenti rispetto a quelli che possono essere i debiti, per esempio contributivi del datore di lavoro rispetto all'adozione della misura. Davvero non comprendo cosa intenda con non è in regola col fisco e non può chiedere, tra l'altro non lo so. Diciamo che proviamo a dare un senso alla domanda e quindi dare una risposta. La richiesta che gli viene fatta può essere accettata se ritenuta conveniente e plausibile dal lavoratore, chiaramente il consiglio formalizzandola con elementi, circostanze, scadenza, però sicuramente il lavoratore non è obbligato ad accettarla. Ad accettare. Sì. Allora abbiamo Alberto che ci ha chiamato da Milano, ha una situazione di contratti a chiamata e di possibile cassa integrazione, quindi andiamo su un altro filone ancora, due addirittura ci dice contratti a chiamata, ma glielo chiediamo direttamente. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno. Buongiorno, ci spieghi, che vediamo di decifrare anche a beneficio, insomma, di chi potrebbe essere in situazioni analoghe, cosa è previsto per lei o magari non è previsto, insomma, ci dica com'è la situazione. Allora, guardi, semplicemente questo: io lavoro in due alberghi diversi con due contratti a chiamata, faccio un po' di ore di qua e un po' di ore di là. Sì. Ora, uno mi ha detto che dovrei ricevere la cassa integrazione straordinaria. Dovrei, ha sottolineato il condizionale. L'altro mi ha detto: guarda, secondo me non ti spettano appunto questi aiuti, però per sicurezza io inserisco anche nel faldone la tua pratica, e quindi io a questo punto ancora non so nulla, e non so, magari forse dovrei fare la richiesta dell'assegno per quel che riguarda gli stagionali turistici, i 600 euro previsti per loro. Che però sono una misura puntuale prevista dal Cura Italia, esatto, se ricordo bene. Esatto. Allora, proviamo a chiederlo al dottor Staropoli, che ci indirizza un po' in questo tipo di ambito, quindi contratti a chiamata, con quindi mi immagino anche dei tempi ridotti rispetto alla temporalità standard per sì, quanto riguarda il lavoratore dipendente classico, per dir così. Prego, Staropoli. Sì, allora, diciamo l'assetto per quanto riguarda dei lavori a chiamata è questo che possiamo definire, così l'ascoltatore può verificare in quale delle situazioni lui si ritrova. Un lavoratore a chiamata che ha anche una indennità di disponibilità e dunque si obbliga a rispondere alla chiamata quando viene fatta e quindi ha una continuità del rapporto è considerato ai fini della cassa integrazione così come qualsiasi altro lavoratore subordinato, lavoratore dipendente, giustamente come ha detto lei, riproporzionando il tutto a quello che è l'effettività della prestazione. Un lavoratore a chiamata che invece risponde alla chiamata laddove la chiamata venga fatta senza però obblighi e quindi senza indennità di disponibilità nel contratto è includibile nella cassa integrazione e quindi sempre riproporzionando con la media dei 12 mesi come ci dice l'INPS la misura soltanto se nel momento in cui il datore di lavoro fa la domanda di cassa integrazione, lui in quel momento è in forza perché ha risposto effettivamente ad una chiamata che gli è stata fatta. Quindi questa è la differenza, questa è la verifica che deve fare l'ascoltatore e soprattutto il proprio datore di lavoro. Se aveva un contratto con indennità di disponibilità, sicuramente avrà il trattamento di cassa integrazione. Se non ce lo aveva, lo avrà soltanto se contemporaneamente al momento in cui la cassa integrazione viene richiesta era in atto una chiamata, cioè aveva stava lavorando. Ecco. Cioè, lui dice che lavora presso due hotel, quindi magari diciamo che gli hotel in questo momento non stanno lavorando, però magari lui stava lavorando per altre mansioni, che so, amministrative o di supporto. Sì, ma non importano le mansioni, cioè se il tipo di contratto è a chiamata, la differenza è soltanto questa e di questo devono avere riguardo datore e lavoratore, considerare in quale delle due situazioni si può venire a trovare. Scusi Staropoli, ma qui stanno arrivando molte domande innescate da questa vicenda dell'ascoltatore precedente a cui hanno proposto una riduzione di retribuzione. Allora, sostanzialmente, cerco di riassumerle tutte, abbiamo un minuto e mezzo prima della chiusura, ma è legittimo che il datore di lavoro proponga in modo diciamo anche un po' unilaterale, in modo spintaneo, una riduzione della retribuzione in questo momento, senza invece fare ricorso alle altre, non so, lo smart working, le ferie, la cassa, eccetera, eccetera? Beh, no, cioè una riduzione ex se, no, perché cioè, sarebbe come addossare il rischio di impresa sul lavoratore che è dipendente, quindi è chiaro, è legittimo venire incontro al datore di lavoro per tutte le esigenze, tutto il calo di attività che queste conseguenze stanno determinando, però utilizzando gli strumenti che ci sono, quindi appunto smart working quando possibile o ammortizzatori sociali. Poi ripeto, come o anche accordo, tutta la gamma delle ferie permessi, dottor Staropoli, sì, perché poi molte aziende infatti, hanno anche esatto. Sì, infatti, perché per esempio prima l'abbiamo detto, non è obbligatorio fruire delle ferie prima della cassa integrazione, ma non è nemmeno escluso che possano essere disposte quale ammortizzatore, è impropria la terminologia, però ammortizzatore sociale di fatto, cioè mi barca meno e cerco di gestire la situazione. Quello che è sicuro è che una proposta del genere non può che essere appunto una proposta che il lavoratore può verificare se accettare o meno, ma non può essere imposta. Quindi, no, la proposta di riduzione della retribuzione, certo, insomma. Certo. Allora, grazie a Pasquale Staropoli, responsabile della scuola di alta formazione dei consulenti del lavoro. Deborah, noi torniamo domani investire torniamo informati, domani. Parliamo di risparmi, sì, di borse, di mercati. Molto Speriamo volentieri. Bene. Buona giornata a tutti, a domani.